Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. La figura del venditore è tipica nei miei viaggi in treno. C'è sempre qualcuno che va in giro per vendere qualcosa. Sono sempre quelli che in realtà fanno lunghi tratti, parlano molto al telefono, trattano con i clienti, trattano con i loro superiori o con le loro segretarie, a seconda del rango che rivestono nella loro azienda. Ho visto vendere di tutto, ho visto rappresentare di tutto, mi sono interessato a tutto, ma è la prima volta che mi capita di vedere una persona che sulla valigetta ha scritto in bella vista Quality DNA Test, una persona che vende test del DNA di qualità. Lo fa con ostentata fierezza, non c'è nulla da nascondere, sì, ma in fondo non c'è niente di male a fare un test del DNA. In realtà chi chiede un test del DNA è perché è corroso da un sospetto verso qualcuno che pensa non abbia detto la verità. Beh, sicuramente il personaggio merita attenzione e soprattutto meritano attenzione quelli che sono i suoi probabili clienti. È un bel impegno occuparsi di DNA, nel senso che lei mette le mani nelle cose più segrete dell'umanità, di quelle che stanno scritte dove non si vede normalmente. Sì, e si scopre un mondo nuovo, perché ci si aspetta inizialmente di trovarsi davanti a situazioni dove magari c'è sempre un tradimento di mezzo o altre cose simili. In realtà poi si scopre che c'è anche tanto di buono, di bello. Per esempio, con un test del DNA si possono ritrovare delle sorelle separate alla nascita, che sono state date in adozione. È accaduto questo, quindi contribuire a dare una, dopo 40 anni, una sorella a un'altra persona e viceversa, è una bella cosa. Ma lei insiste sulla fare? Io ho una piccola azienda che distribuisce in Italia dei test del DNA. Ecco, ma in cosa consiste il test? Cos'è, un tampone? Bisogna metterlo in bocca? Come funziona? Ma generalmente sono dei tamponi buccali, quindi del tutto simili a dei cotton fioc, che si strofinano nelle guance per raccogliere cellule della mucosa buccale. Poi si fanno asciugare e si mettono dentro delle bustine che li devono conservare con i dati di chi partecipa al test. E poi il laboratorio analizza il DNA? Il laboratorio estrae i profili del DNA dei partecipanti al test e li compara. Dalla comparazione viene fuori, a seconda del tipo di test, se c'è paternità o meno, se c'è consanguinità fraterna, se c'è maternità. Ma chi usa questi altro test? Cioè, sono dei privati che se lo comprano il test del DNA? I clienti sono soprattutto privati, però c'è anche una buona percentuale di avvocati e anche di detective. Ecco, facciamo degli esempi, così capiamo meglio. Io per quale ragione dovrei comprare da lei un test del DNA? Per farmene cosa? Facciamo un esempio. Allora, per esempio, ho dei dubbi su sulla relazione che ho con mia moglie. Beh, col DNA cosa capisco? Se il figlio è figlio mio, questo al massimo. Sì, esatto. Capisco se il figlio è mio o è di qualcun altro. Questo è già una cosa importante, nel senso che Questa è la motivazione maggiore che spinge a telefonarci. Quindi è sufficiente che io prenda il DNA di mio figlio e il mio, e con quello si capisce. Esattamente. È molto semplice, quindi... E rientra, diciamo, rientra nella legge, lo posso fare? Beh, allora, se facciamo un test con valore medico legale, ci deve essere anche la autorizzazione della madre. E quindi, possibilmente, anche deve essere presente lì, non solo, ma anche partecipare al test, fornendo il proprio DNA, in modo che il test comprenda tutti e tre i DNA. Naturalmente, poi, se viene usato in contenziosi matrimoniali, è chiaro che è a senso unico, certo, è logico. Certo, vabbè, certo, questa è una ragione. Questa è una ragione. Poi, per esempio, ci sono dei casi che sono ogni tanto avvengono, nei quali il genitore magari è molto anziano e ha una malattia che può essere ereditata dai suoi discendenti, e il figlio o figlia che sia, pur essendo ormai adulto, ma anche molto adulto, chiede di effettuare il test perché ha paura che questa malattia possa essergli trasmessa. Cioè, uno che ha una malattia genetica dice: voglio vedere anche se la trasmetto ai figli, anche questo, se l'ho trasmessa ai figli. Esattamente, perché ovviamente se il padre che ha questa malattia importante è il padre biologico, probabilmente la trasmette ai figli. Se invece non è il padre biologico, non la trasmette ai figli. È chiaro che in questi casi ci sono anche dei risvolti morali che sono la parte bella, diciamo, perché queste persone mi dicono: io, per me, questo signore che mi ha cresciuto o è il mio padre biologico o non è il mio padre biologico, per me è sempre mio padre, perché è quello che mi ha cresciuto. Senta, io la sua esperienza, e sempre bene. Questo è chiaro, è anche bello. La sua esperienza, qual è la percentuale delle scoperte di figli non naturali? Alta? Ah, la statistica è molto precisa. E diciamo che il 30% di quelli che fanno il test di paternità scoprono di non essere i padri biologici. Beh, certo, vuol dire che uno su tre è di paternità non certa. Uno su tre non è il padre, però ovviamente stiamo parlando di quelli che fanno il test. Cioè, che hanno già dei sospetti, ecco, diciamo, la gente con dei sospetti fondati. Esatto. Quando c'è un sospetto, un caso su tre è fondato, cioè vedi un figlio che ti somiglia per niente, hai un sospetto, lo vedi che somiglia magari tanto a un amico di famiglia che girava per casa qualche anno fa, e quindi è chiaro che uno va abbastanza sul sicuro, una cosa del genere, sì, penso. Sì, diciamo che va abbastanza sul sicuro, poi diciamo anche che ci sono delle situazioni in cui il test non viene fatto perché si hanno sospetti sulla moglie o sul passato della moglie o altro, no, ma magari i test vengono fatti perché parenti in famiglia continuano a insinuare che la moglie non è stata fedele. Allora il marito e la moglie, d'accordo ma tra di loro, fanno il test per rassicurare i parenti. Sì. Il treno va. Ma dove accade questo? Capita. E dove accade? Una cosa sembra una cosa fuori dal tempo, veramente. È una cosa che accade soprattutto con gli stranieri. Ah, ecco. Stranieri di soprattutto, che? Soprattutto con gli stranieri. Ah, ecco. Di che nazione, per capire? Allora, sono dell'est, sono sudamericani. Sono queste. Dell'est, cioè loro che stanno un periodo in Italia, tornano al paese d'origine, le famiglie dicono: ah, vedi, tua moglie si è comportata male, questo figlio non è suo. E lui deve dimostrare che invece è figlio suo. Sì, esatto. Ma non necessariamente con viaggi, sono persone che oramai stanno qui, vivono qui, sono qui, hanno la cittadinanza italiana, però di origine straniera, dove c'è evidentemente questo retaggio. Nella loro comunità, diciamo, di stranieri, sì, c'è questa cosa che potrebbe essere sospetta. E con questo li tranquillizzano. Sì, con questo loro, che sono la coppia, è tranquillissima perché sa il fatto suo, con quel foglio loro cosa dicono? Adesso lo portano ai loro connazionali, cioè, guarda, sta tranquillo, basta, è figlio mio. Non dovete dire più nulla e non vi azzardate di più nulla. Questo è fatto. Poi altri usi del DNA, per capire? Beh, altri usi, ricongiungimenti familiari per extracomunitari. Ah, ecco. Certo. Altri usi curiosi, cioè curiosi, insomma, noi facciamo anche i test di paternità prenatali, non invasivi, prima della nascita, con un prelievo di sangue, un prelievo di tamponi buccali da parte del padre, sangue materno e tamponi buccali da parte del padre, riusciamo a vedere se il padre presunto è il padre del bambino che nascerà. Ah, per qualcuno anche sospetto di dire questo magari non è mio figlio? Sì, molti. In quel caso sono di più le signore a chiamare. Però abbiamo fatto... Ah, cioè, signore, scusi, qua mi sembra di capire. Signore che sono incinte e non sanno se il figlio è del marito o dell'amante. Ecco, questo non è tanto. Sanno di... Esatto, sì, esatto. E ci sono stati dei casi in cui invece il test è stato richiesto dal presunto padre... Perché? Perché dice: io ho delle diagnosi che mi dicono che sono sterile, come faccio ad avere il figlio? E con il test si è scoperto che, nonostante le diagnosi, quel signore invece non era sterile. Ah, molte volte lui, miracolosamente, ha generato. Sì, e non è successo una volta sola. E quindi questo dà una speranza comunque alle persone condannate da un referto medico, dice sei sterile, no? Non è così? Certo. Poi ecco, anche ci sono altri test che si fanno sia prenatali che postnatali per verificare, quando ci sono casi di fecondazione assistita, per verificare che effettivamente la parte paterna sia del padre che ha il padre giusto. Ah, già, anche questo, fecondazione assistita, si sbagliano, sì, mettono lo spermatozoo di un altro, può succedere. Sì, fanno questo tipo di test, non dico che fanno che sbagliano, dico che fanno questo tipo vogliono di essere, test. Ma giustamente, vogliono essere sicuri, c'è stata una manipolazione in laboratorio, dice che ne so, vuole essere tranquillo. Oppure magari lo vanno a fare in posti un po' improbabili, dove magari... Per risparmiare poi... No, risparmiare, per farlo si può fare, perché in Italia poi certe cose non sono ammesse, quindi le vanno a fare, ma vogliono avere la certezza. Beh, quindi, diciamo, ha individuato una fetta di mercato interessante. È molto interessante. Oramai sono 4 anni che mi occupo di questo, il mercato è in crescita e appunto la cosa bella, oltre che interessante, è che non sono semplicemente casi brutti, diciamo, sono anche casi in cui effettivamente con il risultato del test si dà una risposta che, diciamo, ben dispone il cliente, non soltanto se è padre o se non è padre. A me viene in mente anche un'altra cosa, non so, una ragazza madre che vuole che il padre naturale del suo figlio si prenda le responsabilità, perlomeno economiche, anche in questo caso. Allora, lì facciamo test legali, ovviamente, e questo accade, certo, come no. Senta, lei ha mai visto le reazioni di qualcuno che in realtà si è trovato un po' spiazzato, sì, scoprendo che il figlio non è il suo? Qualcosa... Non mi scorderò mai una reazione di un padre che non era il padre dei suoi due figli. Di tutti e due? Di tutti e due. E questo era ben chiaro, perché la moglie me lo aveva detto prima. Ovviamente il test ha confermato che questo signore non era il padre di questi due figli, oramai maggiorenni. E questo signore poi mi telefonò e mi disse... si autoconvinse del fatto che il suo DNA era mutato e che quindi quei due figli erano comunque i suoi. Vabbè, quindi si è voluto trovare una consolazione a qualcosa che era troppo doloroso. Si è autoconvinto e così si è salvata tutta la famiglia, perché si è salvata tutta. Quindi la lui è rimasto a fare il padre, i figli ormai erano i suoi. La famiglia è rimasta unita, i figli oramai erano grandi, quindi cominciavano ad andarsene per andare a lavorare. Era meglio nemmeno dirglielo a questo punto che non era il padre. Però lo volle lui il test. Ma lui come mai gli venne il sospetto dopo 20 anni che la moglie avesse tradito? Perché cosa capita di solito? Perché ne avvengono questi sospetti? Perché nella vita di una coppia capitano dei momenti in cui si litiga, ci si lascia, ci si riprende, e accade quasi sempre in quei momenti qualcosa che poi fa pensare. È quasi sempre per quello. C'è uno litiga, dice, tu che nemmeno sei padre dei tuoi figli, litigando, e poi dice... No, litiga, cioè... Quando sono magari ancora fidanzati o sposati da poco e tutto, hanno una lite magari violenta, si lasciano, poi si riprendono, magari nel momento in cui uno si lascia, in cui c'è stato un consolatore che è intervenuto. C'è magari un altro che ha fatto un passaggio non indifferente. Certo. Dice adesso di chi sarà? Di quello della litigata o mio? Certo. Questo accade soprattutto per i test prenatali. Ma ci sono coppie che vengono tranquillamente a carte scoperte, l'uno con l'altro, si sono detti tutto e fanno tranquillamente il test. Quindi la cosa si sta molto più aprendo. D'altronde, diciamo, è meglio saperle queste cose per regolarsi che non saperle alla fine. Ma certo. Ma anche certo, perché con la facilità che c'è oggi di fare il test, a posteriori potrebbe essere un figlio maggiorenne e poi lo fa, è ancora peggio e lo scopre. È peggio. Infatti abbiamo avuto dei casi in cui il figlio oramai ben grande ha voluto fare lui il test ed è venuta fuori la verità che quello non era il padre, e lì poi in quel caso so che ci sono stati dei guai grossi. Sì, anche da un punto di vista penso patrimoniale ci sono dei problemi. Certo. Invece, per esempio, una volta un signore abbastanza anziano, molto molto per bene, telefonò più volte prima di decidersi a fare il test. La prima volta telefonò ed era piuttosto arrabbiato. C'è un signore, un ragazzo che dice di essere mio figlio, io questo non lo voglio vedere, non lo voglio, però mi sta chiedendo di fare il test. Ha fatto 2-3 telefonate e si è ammorbidito a ogni telefonata. Alla quarta telefonata, dove io gli ho dato il risultato del test, lui è stato contentissimo perché mi ha detto: sono oramai avviato verso la vecchiaia, non ho nessuno, sono solo, ho disponibilità economiche, ho trovato un figlio e sono veramente contento. E lui ha ritrovato questo figlio che aveva 33 anni nel frattempo. Beh, lei pensi quanta letteratura, quanta fantasy, non avrebbe più senso oggi queste cose misteriose, sono tuo padre, sei mio padre e via dicendo. Oggi c'è la certezza, il test è certo al 100%, cioè è definito. Ah sì sì. Questi test si chiamano, in gergo, si chiamano pace della mente, peace of mind. Ah, sì. Pensa. Perché così uno si mette tranquillo, si tranquillizza. Sì, perché si mettono tranquilli. Senta, lei fa solo test del DNA o anche altri tipi di test? No, noi facciamo con un altro sito internet anche i test antidroga, ma facciamo solo quelli con analisi del capello, che sono quelli assolutamente più affidabili, dove non si può barare e dove si può andare indietro nel tempo. Ma in questo caso chi è che ve li chiede? Una famiglia vuole sapere se il figlio si droga? Sì. Allora, sono i genitori che vogliono sapere se il figlio fa qualcosa che non deve fare, consumatori stessi che vogliono controllarsi, vedere come va, se effettivamente il cessare del loro consumo coincide con un'assenza di segnali nei capelli. Poi ci sono anche qui avvocati, detective e vari. Comunque sono soprattutto... Però mi faccio capire, con un capello cosa si vede? Che tipo di droghe si leggono? Allora, con un capello non si vede niente. Né con i test DNA e né con i test antidroga. Se parliamo di test antidroga, una ciocchettina di capelli, di almeno un centinaio di capelli. Ah, bella, bella ciocchetta, non basta un capello. No, 100 capelli in realtà sono pochissimi. È una ciocchettina che ha il diametro di una piccola cannuccia, come quella del tè, come quella del succo di frutta. Ah, ecco. Basta quella. Un ciuffettino di capelli. È piccola, molto piccola. E cosa si vede? Che tipo di droga? Le vediamo tutte, praticamente tutte. Vediamo la cocaina, i cannabinoidi, gli oppiacei, le anfetamine, metanfetamine, ecstasy, metadone, buprenorfina, chetamina, l'alcol, perché molti test sono per l'ETG, etilgluconide, che è la misurazione dell'alcol nel capello. Vediamo tutto. Quindi è un test anche questo serio e indicativo? Assolutamente, anche questi li facciamo sia informativi che legali. Abbiamo anche qui, ecco, qui è una cosa che è un po' più lenta del DNA, però anche quella è partita. Ecco, quanto tempo traccia nel capello, rimane tracciato nel capello? Capello cresce un centimetro virgola tre ogni mese, quindi il capello lungo per esempio 4 centimetri, la ciocchettina di 4 centimetri, 4 mesi... consente di vedere 3 mesi e mezzo, 4. Quindi una donna con capelli lunghi c'ha no, anni. Non ci si arriva, non ci si arriva. Ah, beh, dopo. Allora, poi vabbè, se andiamo a vedere le indagini forensi, quelle dei RIS e compagnia bella, si vede anche più indietro, però con un test, diciamo, tra virgolette, di laboratorio normale, vediamo fino a 10-12 mesi all'indietro. È un annetto di storia. È che non è poco. Eh beh, non è poco per niente. Per non capire. È poco. Si può vedere anche mese per mese, volendo. A vedere se a gennaio è fatto, febbraio no, sì. Marzo sì. Centimetro per centimetro. Tornando indietro è come fosse una scala, un calendario, ecco, vedi i mesi. Sì, esatto. E anche qui, ecco, per esempio, ci ci sono anche qui dei casi che possono sembrare divertenti. Nei casi di separazione ogni tanto capita che magari uno dei coniugi che accusa l'altro di essere utilizzatore di sostanze, oppure magari abusatore di alcol, costringe l'altro a fare il test e si scopre che invece questo non consuma proprio niente. Ah beh, il contrario. Va bene, io la ringrazio, è stato preziosissimo avere queste informazioni. Poi era grazie anche a lei. Era troppa la mia curiosità di capire esattamente cosa si portasse dietro. Grazie, buon viaggio, a arrivederci. Disposizione. Arrivederci. Grazie, buongiorno. Il treno va. Donna matura in transumanza. Matura non è un termine dispregiativo, anzi un termine carezzevole. Non è più una ragazzina, questo è chiaro. È una donna che ha vissuto parte della sua vita, l'ha vissuta bene. Però vedo chiaramente che è in trasferta. Sta andando a farsi una partita fuori casa. E sicuramente la scelta del campo è stata per lei una scelta oculata. Perché è una donna attenta. Ma voglio capire cosa c'ha oltre quella valigetta, quel bel vestito della festa, quelle scarpe che si mettono solo nelle grandi occasioni e quel capello acconciato da una parrucchiera probabilmente di paese, ma con grazia. Voglio capire cosa c'è dietro questa scelta e qual è soprattutto l'oggetto della sua transumanza. Quindi vivi in un paese? Sì. E ogni tanto viaggi? Molto viaggio. Sei di quelle persone che anche amano allacciare amicizie online, conoscere persone, sì, fare un sì, po'. È successo, ma già da parecchio tempo. Ho utilizzato spesso il computer per entrare in contatto con altre persone, ad esempio, che ne so, mi sono iscritto a un gruppo di persone che amavano cucinare, ogni tanto ci si trovava a turno a casa di qualcuno a cucinare, questa è una cosa carina, e lì ho conosciuto persone con cui condividevo questa passione per la cucina. Vabbè, tutte cose tranquille, io pensavo sì, che no, poi mi è capitato anche, siccome sono single da ormai 12 anni di beh, è un bel peso, 12, anni, 12 anni da sola non è una cosa facile. No, non è 12 anni che sono da sola, diciamo che è 12 anni che mi sono separata e poi divorziata. Non mi sono più risposato, ho avuto chiaramente delle altre relazioni e mi è capitato di conoscere degli uomini attraverso internet. Sì. Raccontami un po' delle tue esperienze, così sappiamo qualcosa di prima mano. Allora, le mie esperienze. Mi è capitato di conoscere persone con cui magari uno in particolare, una persona molto intelligente, molto affascinante, con cui poi ogni tanto ci si sente come stai, come non stai, però con cui siamo usciti a cena, e però lui poi mi ha confessato che era sposato. Beh, intelligente, affascinante, qualcuno l'avrà pure preso per strada, no? Non ti viene questo sospetto? Sì, infatti, avevo una moglie. Sennò, ecco. E non te l'aveva detto però all'inizio? Non l'aveva detto lì, no. Era un marpione, il solito marpione. Certo, e infatti io poi gli ho detto, guarda, sei una persona molto intelligente, è bello parlare con te, ma non è quello che cerco io, insomma, sei un po' troppo sposato. Ma dopo quanto te l'ha detto che era sposato? No, subito, a cena me l'ha detto. Poteva dirtelo anche prima, magari. Sì, infatti. Manco ci andavi a cena. Infatti, sicuramente. E niente. Ma lui che voleva? Farsi soltanto un amante così senza. No, lui mi ha detto: guarda, io e mia moglie siamo come due amici. Sì, vabbè, tutti diciamo così. Ecco, dopo 20 anni che stiamo insieme. Fratello e sorella. Ecco, bravo, fratello e sorella. Cercavo un diversivo, io non avevo voglia di essere il suo diversivo. Ma vabbè, oddio, può anche essere divertente essere un diversivo. Sì, basta no, dirlo. Sicuramente. Ma non era quello che volevo io in quel momento. E lui come si poneva invece? Quando si poneva, prima che tu lo vedessi, cosa diceva? Sono single, bello, affascinante? Sì, no, single, bello, affascinante no. Non era uno che si era messo particolarmente in vetrina. Si capiva che era una persona di un certo spessore, di una certa cultura. Ma no, l'effetto vetrina no, ecco, e lui no, almeno questo. Ma secondo no. Te era di quelli che pescano a strascico? Cioè, come te, ne aveva beccate non so quante, vedeva poi per esclusione cosa rimaneva da portarsi in barca? Chi lo sa, questo lo sa solo lui. E ci sei rimasta male? No, diciamo che questa cosa mi ha fatto capire che lì dentro c'era di tutto e di più. però ecco, vabbè, ci sono sposato alla fine ben peggiori Uno sposato alla fine non è un delitto, non è uno, ma assolutamente no, che ti taglia però pezzi era, con la motosega, non era tra i miei interessi. Invece hai trovato qualcuno di interessante? Sì, qualcuno di interessante sì, con cui c'è stata una bella storia che è durata quasi 3 anni. Poi lui hanno offerto un'ottima posizione lavorativa all'estero, ha preso ed è andato, io sono rimasta qui con i miei figli. Beh, quindi eravate proprio fidanzati con questo? Sì, sì, è stata una bella storia d'amore. Quindi le storie d'amore possono nascere anche attraverso la rete? Sì, possono nascere, ma non è tanto facile. Io penso, ho maturato una certa consapevolezza su questo tipo di approcci, chiamiamoli virtuali, che è molto meglio conoscere le persone dal vivo, perché è diverso il modo in cui ci si approccia anche nei confronti delle altre persone. Un esempio, ho conosciuto un farmacista single, me l'hanno presentato perché aveva scritto un libro e io anche avevo appena scritto un libro, anche lui ha scritto un libro, a questa cena, abbiamo chiacchierato un po', e una sera poi lui mi ha invitata ad uscire con dei suoi amici, mi ha detto dai vieni dai miei amici, ti faccio presentare il tuo libro così li conosci, simpatici. Ogni tanto io esco con questa persona che è carina, ma l'approccio con lui è stato diverso. Quando tu conosci delle persone in rete invece, questi non so, vogliono subito quagliare, diciamo, le donne, capisci cosa voglio dire? Stanno lì per quello. Sì, ok, qualcuno ci sta che non è solo lì per quello, che magari è anche disposto a mettersi in gioco un po' di più, a voler approfondire la conoscenza, che cerca una relazione, non solo quello, ecco, come intendi tu, però è un po' più difficile trovarli lì, ecco, questo sì. Diciamo che di solito è un patto reciproco. Chi va in certi luoghi d'incontro che sono ben connotati, se vai nel sito adulterio.com, ti faccio un esempio, è chiaro, trovi persone sposate adulterine, certo. Oppure il sito trombamico.net, trovi quello, certo. Se vagamente giri e ti poni non si sa, ecco. Certo, sì, ma io non so dirti, sui siti per sposati e cose del genere non ci sono mai andata, quindi non so dirti cosa si trovi lì. No, questo sono d'accordo, certo. Invece esperienze negative le hai avute? Ma certo, esperienze negative sì, l'importante è riconoscerle subito e non perdersi del tempo. Qual era il rischio? In quel caso qual era il rischio? Il rischio è di trovare persone che non sono quello che dicono di essere, che magari si spacciano per super mega dirigenti, ricchi, laureati, poi in realtà non lo sono niente di tutto ciò. Sono dei morti di fame, poveretti, che cercano. Sì, ma voglio dire, non si giudica la persona in base a quello, ma già se uno ti dice che è il super mega dirigente poi non lo è, qualche problema forse ce l'ha, non pensi? Viene con l'autobus, nemmeno ti invita a cena, cose del genere. No, questo non mi è mai capitato, divertente, no, non mi è mai capitato questo. Quando l'hai scoperto te, il finto ricco, ad esempio, il finto benestante, la cosa li sgami subito quelli che non la raccontano giusto, anche perché in genere sono così poco furbi. Io innanzitutto voglio sempre avere un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica. La prima cosa gli dico, vabbè dai, proviamo a scambiare 4 chiacchiere e indirizzo di posta elettronica. Di solito ti danno il loro indirizzo personale, non ci vuole niente a fare una ricerca su internet e vedere chi sono. Perché qualcuno è così ciuccio da darti l'indirizzo di posta personale. Quindi vedi nome, cognome, certo, ditta dove lavora, azienda. E lo dammi subito. Se fa non stai neanche a perdere tempo. L'usciere o fa il mega direttore, certo, è chiaro. Cioè voglio dire, un minimo di scaltrezza ce l'abbiamo tutti. Ma ti sei mai sentita in una situazione di pericolo con persone sconosciute? No, anche perché le evito a priori. Di solito dov'è il luogo dell'incontro? Lontano da casa, naturalmente. Sì, lontano da casa si può fare anche in un bar, si prende un caffè. Sì, certo, non a casa tua, sicuramente no. Beh, non fai venire uno sconosciuto a casa. Ma assolutamente no. Ma qual è il problema? Che, diciamo, le donne sono romantiche, prendono tutto sul serio, pensano siano brave persone, intenzionate. Io penso che in giro ci siano forse sia donne che uomini un po' ingenui, e che nella loro spasmodica ricerca dell'altra metà del cielo abbiano un po' come le fette di salame sugli occhi, oppure non vogliano vedere, no? Oppure pigliano quello che passa al convento, già gli sembra tanto, può anche essere questo, eh. Sì, forse si illudono che su internet chissà che cosa si possa trovare. Puoi trovare la stessa, le stesse perle, le stesse schifezze che trovi anche nel mondo reale. Cioè, anzi, lì le fregature sono sicuramente amplificate, secondo me. Il rischio di fregatura c'è ed è decisamente alto. Dammi un decalogo da chattatrice, sì, provetta, anche informatica, quindi sì, sei una persona del mestiere. Una donna che si trova sola e dice, sì, sono sola perché devo star sola. Vediamo se trovo qualcuno che mi piace per passare. Sì. Si mette a guardare in giro, come si deve presentare innanzitutto? Beh, presentare per quello che è. Senza cedere con foto succinta, anche perché sennò è chiaro quello che vai cercando. Pensano subito se è zoccolo e basta. Infatti, una foto decente di te, da cui si capisca un po' chi sei. Non usare mai indirizzi di posta elettronica che possano ricondurre a te come persona. E poi, detto questo, metodologie di incontro, il primo incontro come deve avvenire? Ah, il primo incontro in un luogo pubblico, un bar, un locale. Ci sono quelli che ti dicono, ah, ma sì, scusami, il ristorante, ma dai, vieni a casa mia. Certo. A casa tua, ma sei matto. Così, inforcano sì, subito senza nemmeno spendere. Sì, e quando ti dicono così, chiudere subito, perché è chiaro che cosa vogliono, non gli interessa neanche approfondire la conoscenza, una vale l'altra. Cioè, sono proprio dei marpioni seriali. Non si fa così, almeno dare la parvenza di Roma. Ma un po' di garanteria, almeno dai. Minimo. Non è detto che poi non accada lo stesso, ma almeno con un po' di stile, no? Ma infatti, un po' di garanteria. Senti, tu hai mai avvertito amici o amiche tue, dice, guarda, mi devo vedere con questa persona, certo, questo è il telefono, se non, certo, ti chiamo, avverti la polizia, cose del genere? Certo, una mia amica lo fa sempre, ad esempio. Ah. Quindi, quando esce con qualcuno mi lascia il numero della persona con cui si sta vedendo. E se lei non ti avverte, tutto ok? Sì. Tu puoi anche chiamare. No, e poi sinceramente quando esce con qualcuno mi dà sempre i riferimenti, le mail, cose del genere, e magari qualche sbirciata su internet la do anch'io. Ma come va anche te? Ah, vai a dare un'occhiata a vedere? Sì, certo. Ah, bello. Qui già una rete di sicurezza ti permette di vivere anche delle vite parallele in tutta tranquillità. Ecco. In che senso vite parallele? No, nel senso conoscere altre persone, vedere altre. Sì. Niente di. Ah, sì, sì, certo. Vabbè, in bocca al lupo, va, io riprendo il viaggio. Salute, ciao, grazie, alla prossima. Buon viaggio, ciao. Il treno va. Eccoci arrivati all'audiolettera. Questa volta è un uomo che mi scrive. È un uomo che manifesta una passione di cui gli uomini spesso non amano vantarsi, però vale la pena di ascoltarlo. Caro Nicoletti, qualche settimana fa un'ascoltatrice di una certa età ti ha raccontato di avere una passione per i ragazzi o per uomini molto più giovani di lei. Io invece sono uno di quelli a cui non dispiacciono le donne mature. È sempre stato così. A scuola, mentre ai miei compagni piaceva la giovane e ai tante prof di ginnastica, io guardavo quella di biologia di 40 anni. Mi piaceva il suo portamento e quell'aria solo fintamente austera. Ero affascinato dall'idea di sentire scorrere desiderio là dove apparentemente è più assopito. Ma di questa mia inclinazione non ne ho fatto un'ossessione. Ho avuto storie anche con mie coetanee. E così è da 3 anni che sono fidanzato con una mia coetanea, appunto. Ma 2 settimane fa sono riuscito a complicarmi le cose. Adesso che ho 36 anni, ho ceduto alla tentazione rispondendo alle timide avance di una donna di 63 anni, con cui lavoro. Ma la donna in questione non la definirei una MILF o una cacciatrice di uomini più giovani. Non mi pare proprio il tipo. Ripeto che a me quella che attrae non è la donna matura aggressiva, esibizionista, che ai miei occhi rischia di essere francamente fuori luogo. Quello che ha fatto scattare la molla in questo caso è stato il pensiero di vedere quanto piacere potessi io dare a una donna così elegante e fascinosa, che sicuramente fino a pochi anni fa aveva tanti corteggiatori. Non saprei dirti quanto sia stato piacevole stare con lei. Ora conta poco. E tutto qua, voi direte, cosa c'è di strano? un uomo di 36 anni che ha una storia con una donna di 63, cosa c'è di male? Nulla, anche perché questa donna è mia perfetta coetanea, quindi dovrei dire che trovo non più oggetto di passione, d'attenzione e di palpitazione sessuale amorosa le mie coetanee, guai al mondo. Quest'uomo però vuole raccontarmi la stranezza di una sua passione, stranezza in quanto probabilmente meno confessata, meno appalesata. È un uomo a cui piacciono le donne che hanno i segni della storia della loro vita addosso, a cui piacciono le donne più grandi. È un uomo che ama le donne che hanno un passato. Ma dopo quel primo incontro non ci sono state per fortuna altre occasioni. E sinceramente mi ero anche preparato una via di fuga, sapendo che a breve mi avrebbero spostato in un'altra sede e che quindi non avrei corso nessun rischio di ricaduta, diciamo così. Ma ho fatto male i miei calcoli e sto pagando caro questo mio cedimento un po' narcisistico. La signora, alla quale non ho mai nascosto la mia condizione di uomo impegnato e convivente, dopo il nostro primo e unico rapporto, ha cominciato a cercarmi e a scrivermi, soprattutto via WhatsApp e Facebook. Se non avessi la certezza che è una signora di una certa età, direi che quelle parole di fuoco le ha scritte un'adolescente accesa di passione, presa dall'ebbrezza delle prime esperienze. Ho cominciato a diradare le mie risposte e anche l'entusiasmo nei confronti dei suoi messaggi erotici, ma poiché lei è tutt'altro che ingenua, ha subito capito che direzione stavo prendendo e ha cominciato a manifestare un certo rancore. Mi scrive che la sto trattando male, che dopo quello che abbiamo provato non posso fare finta che non sia successo niente e via dicendo. E per farmelo capire bene, ha cominciato a scrivermi anche di sera o la domenica, sapendo bene che cosa rischio. Ora, la domanda che ti faccio è semplice. Come diavolo faccio a liberarmene in modo indolore? Escludo nella maniera più assoluta di dire tutto alla mia fidanzata. Potrei bloccare chiamate e messaggi dai suoi account, ma temo così di farle aumentare la rabbia. La devo incontrare? Le devo parlare francamente? Oltretutto, lei non è più sposata e non ho le stesse armi che ha lei nei miei confronti. Caro amico, ti sei messo in un bel pasticcio. Ora, se tu avessi sedotto una donna giovanissima e con lei ti perseguitasse, direi: ma sta attento, hai fatto qualcosa che era meglio che tu non facessi, ti sei approfittato di una persona non perfettamente in grado ancora di riuscire a valutare quelle che sono le proprie passioni, le proprie inclinazioni. Perché a 36 anni sei andato a perdere tempo con una ventenne? È colpa tua, adesso ne pagherai le conseguenze. Ma in questo caso mi trovo sprovvisto, mi trovo veramente perplesso. Cosa devo dirti della vecchia satanata che ti insegue? E dico vecchia, naturalmente consapevole del fatto che sia una mia coetanea. Ma è chiaro che questa donna, tu hai risvegliato passioni che lei pensava ormai sopite, hai dato a lei la vertigine illusoria di poter essere desiderata, amata, posseduta da un uomo che ha la metà dei suoi anni. E questo probabilmente ha un senso. Impazziscono gli uomini per le donne più giovani, si consumano patrimoni, si consumano i cervelli, si consuma la ragione, si disperdono le famiglie, gli impegni di una vita. Tu pensi a una donna che trova un giovane uomo sinceramente appassionato da lei, perché il tuo è naturalmente un atto d'amore, un atto di passione. Quella che tu consideri probabilmente una stranezza e ti vergogni di confessare, in realtà è una molla favolosa vista dal punto di osservazione di chi è l'oggetto delle tue attenzioni. Sarà molto difficile toglierti di torno questa donna. Ormai è partita, ormai ti vuole, ormai è un po' come la mamma del mega direttore di Fantozzi, che dopo che lui l'ha rapita per fuggire a una festa spregevole fatta da impiegati e si chiude con lei in una cabina del telefono e prova a usarla come ostaggio per riacquistare la sua libertà di impiegato schiavo, lei dice: no, lo amo, lo voglio, l'uomo della mia vita. E Fantozzi si trova anche lui incastrato in una storia di passione con una vecchia.